Ma con le cuffie ti stai ascoltando? No, no, no, no, no, mi stavo ascoltando con un'altra radio, non con le cuffie. E questa com'è? No, questa va bene, va bene. Quando ti ascolti, mettiti le cuffie, mettiti all'altra radio senza attaccare l'antenna. Sì, no, l'antenna attaccata. Questo è quello che stavo usando fino a poco fa. È diversa? Sì, è a voglia. Mi mancariglia, chi sia uguale. No, va bene, caspita, questa è migliore. Poco fa, quando sei entrato, non si capiva niente. Quello è il Turner, hai visto? Ti ho fatto vedere l'effetto che ha il Turner sul presidente Lincoln. Il mio non è così. Il tuo non è così, sì, è così. Non è così forte, perché a te abbiamo fatto bene i livelli di amplificazione. Però è sempre così fine la modulazione, mentre l'MBP5 e l'MBP4 rimane molto più grossolana ed è più bella. Sì. No, perché io oggi mi sono ascoltato quei microfoni, li ho provati tutti, mi sono ascoltato e caspita, per me vanno bene, poi non è a tutti che piace la modulazione che piace a me. Il mondo è bello perché è vario, non tutti dobbiamo avere la stessa, diciamo, la stessa modulazione. A te piace quella ed è giusto che usi quella, e la gente si deve abituare a sentirti con quella. A me piacciono questi sistemi molto chiari, molto veritieri, si devono adeguare a... Io ho cercato di fare una modulazione, di farmi la radio forte in FM, perché io parlo in FM, di farla bella grossa, cioè molto, una radio forte ma veritiera. Se voglio io cambio i parametri, diventa anche io amplificato come si usa nei CB, diciamo modalità M. Però no, non mi va, e si devono abituare a sentirmi così, oppure dovete abituarvi a sentirmi così. Le radio sono belle perché ognuno ha il tipo di modulazione sua, e tu fai bene a mantenere il tuo standard, capito? Non ti devi mettere problemi, tu devi cercare la modulazione che più a te aggrada. Non devi ascoltare gli altri, ma sei troppo forte così, colà, sono comprensibile? Sì, mi capisci? Sì, va bene. Se poi tu a me mi dici, Gavì, mi serve che una modulazione bella, fai tu. Allora, se tu mi dici fai tu, io cerco di farti una modulazione come quella che piace a me. Però, conoscendo i tuoi gusti, quella dell'MBP4 o dell'MBP5 è quella che più ti si addice. Capo. Vedi, allora, adesso mi sto ascoltando anch'io, E diciamo che, vedi, questa adesso è bella, però la sento come tipo metallica, in cuffia. Io ti dico una cosa, Gavì, a me la modulazione tua mi piace, perché da quando hai fatto quella modifica mi piace la tua modulazione, perché è forte, l'amplificazione è forte, chiara e rilassante. È bella, veramente bella quella tua modulazione. Ma esatto. Poi c'è chi gradisce, oppure c'è chi ha l'orecchio, orecchio al Kenwood, orecchio alla modulazione penetrante che devi prendere, alla modulazione della M, e niente, magari non gradisce, però a me non mi interessa. Io quando vado a fare radio voglio che la mia parola venga capita al 100%, non devo stare di lì a ascoltare modulazioni in distorsione, queste cose qua. A te piace anche la M, quindi tu dovresti trovarti un microfono da usare anche, ne fai uno per la M e uno per la FM. Secondo me, te lo metti di lì, bello, E io a Lincoln, anzi, io gli avrei abbinato al Saturn, gli avrei abbinato il Turner e l'MB più 4, perché l'MB più 4 tu o Saturn Echo esci veramente bene in FM, è bene in AM con il Turner, mentre a Lincoln gli avrei messo il più 5. Il più 5 gliel'avrei lasciato perché è bella, è bella bella. Sì, sì, sì, in effetti sto usando quello qua, sto usando. Sì, la mia MB più 4 valutato li posso usare, tutti e quattro li posso usare su quella radio, tutti e quattro. C'ha già l'attacco fatto per quello lì, per il Galaxy. Infatti il 4, io di solito stavo usando il Turner, perché il Turner è l'ultimo che ho comprato, però posso usare anche il 4, il 4 è buono sul Galaxy, è sempre uscito bene. Qua il Turner in AM con Saturn Echo è bello, no, ecco, su quello non si discute, in AM. In AM sono microfoni belli, belli, belli, belli. Il Turner io per la M è fantastico, però per la FM ci vuole un qualcosa più, secondo me, più di che abbia qualità. Mi segui? La FM è un'emissione che deve rilassare, deve essere bella, presente, ma deve anche rilassare. A chi si è ubiglio, no? E distrito di Bassami, una girata in radio. Io vi voglio passare, adesso vedi, noi ci stiamo scambiando le quattro chiacchiere, stiamo facendo le prove. E mi piace rimanere in radio perché hai un'emissione che è rilassante, che almeno per come ti ricevo io, con gli autoparlanti io, è gradevole, è come che noi stiamo facendo una chiacchiera seduti in un tavolo, capito? Quindi io a te ti ricevo così. Però se io decido di passarmi una serata in radio, un paio d'ore, due o tre ore in radio, torno da lavoro, tartassato dal rumore, e devo ascoltarmi una modulazione in AM, tutta quanta piena di QRM, tutta quanta piena di distorsione, di cose, allora io in radio non entro. Io in radio non entro, quindi la radio deve essere ti devi rilassare, non si è sempre in guerra. Poi se vogliamo andare in guerra, ti ripeto, cambio microfono, attacco l'amplificatore e andiamo in guerra, ce l'andiamo sul 45, andiamo a fare casino. Però se devo scambiare quattro chiacchiere, mi piace ascoltare la voce dei corrispondenti rilassato, no a macco e piedi macchietto. Sì, sì, sì, sì, sì, no, ma anche a me è così, non mi piace il rumore, quando c'è il rumore non mi piace in una radio che sto ascoltando, quello è naturale. Poi, grazie a Dio, abbiamo un radio che potremmo squarciare, potremmo urbani, e possibilità di farci microfoni come vogliamo noi. Io volevo fare una cosa, prendere un microfono della Yaesu, quelli da tavolo, e abbinarlo a quei dinamici, abbinarlo al Galaxy. Io sono convinto che col Galaxy quelli lì camminano bene, bene, bene, e ti danno in FM una modulazione micidiale. Sì. Senza ombra di dubbio vanno, senza ombra di dubbio vanno, ma tu ti vuoi togliere il gusto, chi è? Sei tu, Fra? No, buonasera. Ciao Tino, buonasera e ben sentito. Compagna di Franco, se ti vuoi togliere, Fra, dopo rilanciatino quando facciamo il passaggio, quando ti vuoi togliere il gusto, prendi e metti mi il bastardo in PRM, usando la parola, e quando vuoi metti le batterie all'MC60 e la provi con Saturn Echo oppure con Lincoln. e vedi un pochino se sei gradevole. Vai fra, riprendi e poi fai girare Pertino di nuovo. Ehi capo, sì sì, ehi tu, ehi vabbè, niente di particolare. Sì, ma io l'MC60 lo posso usare già qua, mettendogli le batterie. Su questa radio la posso già usare, perché ho già gli attacchi fatti. Sì. Provalo senza problemi. Buonasera Tino di nuovo, vai. Buonasera, sabato d'inferno, porca miseria. Lavorato, sono entrato adesso dalla Trinità da Gulto e stavo scaricando i mobili, sennò si bagnano, è un casotto. E va bene. Buonasera, com'è andata qua la giornata? In gardura eri in gardura. Io ho finito che erano le 11 e mezzo, poi sono venuto qua a casa e con Franco stamattina abbiamo scambiato le 4 chiacchiere e poi abbiamo ripreso poco fa e la giornata è andata al lavoro. Si lavora anche il sabato, non bastano più. Io comunque mi sto trasferendo a, se vi interessa, a 446 075, perché è impossibile rimanere a 446 e 100. Mi sto trasferendo lì. Oh, io non sento nessuno, comunque 081 e canale 7 se non sbaglio, 0,85 non lo so, comunque. Franco, gliel'hai tirato gli orecchi a Gavino? No, non ho detto niente. Non gliel'hai tirate, ui. Perché? Ah, scusa Gavino, l'avevo letto stamattina. Auguri comunque. Grazie. Era... adesso si è spostato anche a 0,75 il rumore. Perché devi morire, se ci stai seguendo, devi morire, maledetto. Guarda. Sì, devi morire. Guarda, devi morire che mi stai dando di più. Abbaite. Guarda. Comunque. Fra, 42 sono arrivati, 42 belli. E vamos, vai Tino. Ah, io vai 40 metri e mollalo questo qua. Brecco. In 40 metri? In 40, non gli 80, dove vuoi? In 80, ci sono già. Brecco. Così almeno rompere Wallace. Oh, aspettate un attimino. Oh, io vi devo lasciare, devo scendere a mangiare. Ci sentiamo più tardi, dai. Eia fra, va bene, buona cena. Anche io ceno e poi dai, sono in radio, non ho altri impegni. Vai Tim. Andare, ciao fra, ciao, buonanotte, sì, buonanotte, buon carica. Buonanotte, lo devo dire io, sono mezzo addormentato, a parte il lavoro che ho fatto, però va bene. Ciao fra, buona carica. Ok dai, a dopo, buona carica anche a voi, ciao. Ciao, a dopo. Ma eri là, Gabi? Sì, ti ho dato prova, eccolo qua. Brecco. Ragazzi, sono Danilo, mi ricevete? C'è. Boh, non so, chi è, avanti. Ciao ragazzi, buona serata, sono Danilo. Ciao Danilo, ben ascoltato per la prima volta, credo, perché non so se è un nominativo o meno, comunque, buonasera. Esatto, è la prima volta, stavo facendo la scansione e ho trovato voi sul 12, di solito sono sul 10 con qualcuno di Sassari, voi siete di Sassari lo stesso, è zona? Tu di dove sei? Io di Porto Torres. Ah, allora dovresti sentire bene anche l'amico nostro, dai Gavi, vai avanti. Sì, Sì, buonasera, buonasera Danilo, ben sentito per la prima. Qua a Gavino, periferia di Sorso, avanti di nuovo per te. Sì, vi ricevo forte, forte e chiaro, un bel segnale, bella modulazione, davvero ottima ricezione. Meno male, beh, siamo contenti perché anche noi con questi baracchini della mutua non è che possiamo pretendere chissà cosa. Dai, ognuno si accontenta di qualche ciao, l'importante è riuscire a sentirti. Va bene, ma sei nuovo di frequenza? Esatto, esatto, è da poco che ho allestito la barra fissa, prima in barra mobile, giusto per ascoltare qualcheduno, fare un QSO, però adesso proprio da questi giorni ho allestito la barra fissa. Beh, non più che barra è stazione fissa, la barra è quando guidi. Ah, ok, ok, grazie per la dritta. E voi come ricevete, com'è il segnale? Vabbè, in FM è molto forte, quindi nessun problema, nessun problema. Vai, Gavi. Sì, sì Danilo, io ti do il fondo scala qua, eh. Io ti do il fondo scala qua da, dalle mie parti. Dalle mie parti, noi rimaniamo qua sul 12 in genere in FM. Siamo dai, un gruppo che facciamo il QSO la sera prima e dopo cena, perché durante la giornata andiamo, diciamo, siamo tutti impegnati per attività lavorativa. E niente, niente. Io sono contento di che ci sia un altro, diciamo, un'altra antenna sul tetto, Tintino. Dobbiamo essere contenti che qualcuno metta antenne sul tetto. E si ripopoli questa frequenza, si ripopoli questa frequenza. A noi ci trovi sempre qua sul 12 in modalità FM, in modalità FM. Che apparato stai utilizzando, Danilo, se mi posso permettere? Guarda, io sto usando un Midland M30, niente di che, però dai, diciamo che fa la sua sporca figura, nel senso, dai, riesco a sentire a qualcuno e quindi va più che bene. Sì. E l'antenna? Guarda, l'antenna per ora ho messo una Boomerang, la 27A per ora, poi vediamo un attimino se riesco a fissarla bene, cerco di mettere una 5 ottavi. Va benissimo. Va benissimo, per il momento va benissimo e almeno io ti posso dare una comparazione, un segnale del fondo scala qua alle mie coordinate. La radio è comprensibile, quindi non ci sono problemi. Benvenuto sulla 27105 canale 12. Avanti di nuovo Tino. Già va bene, dai. No, in FM è già, a parte anche se hai un piccolo baracchino e un'antenna piccola, l'FM ti dà soddisfazione, dai, ti fa arrivare un pochino più spinto, al contrario della M. Comunque va bene, siamo contenti. Beh, comunque mi ha fatto davvero piacere, adesso che so che su questo canale ci siete anche voi, rimango, lo lascio sempre acceso su questo canale, in modo così la sera da poter fare qualche chiacchierata, che fa davvero piacere. Sì, ma anche a noi fa piacere, anche a noi fa piacere. L'importante è che ci sia educazione, ci sia un po' di cortesia anche quando è fatto benissimo a fare la bussata. E poi tutti sono ben accetti. Qua in genere noi parliamo più che altro di argomentazioni tecniche. Sì, anche queste, facciamo QSO di vita quotidiana, però si fanno molte prove radio, molte argomentazioni tecniche, quindi dovendoti servire qualcosa, qualche informazione o qualche dettaglio su apparati o antenne, hai trovato qualcuno che ti può, nel nostro piccolo ti può aiutare. Beh, l'FM sicuramente vedi cosa vuol dire. Lui secondo me in M non sarebbe arrivato così, soprattutto così chiaro. Stai utilizzando il suo microfono originale interrogativo? Sì, esatto, sto usando il microfono originale. Guarda, ti posso dire che di solito io su 10 ho collegato Sassari e qualcuno in altezza magari mi riceveva bene, qualcuno magari che era una zona un po' più un po' più disagiata, mi sentiva molto basso. Questo è vero, in FM è tutta un'altra musica, diciamo. Sì, beh, in FM hai una ricezione molto più confortevole, senti proprio la qualità dell'emissione, la qualità vocale, è tutto più perfetto, diciamo, dai, tutto più perfetto. E va bene così. Sì, poi ci sono amici da Sassari che sono molto cordiali, dai, ti potrebbero anche loro, sicuramente ti danno anche loro il benvenuto. Dopo entrerà anche Franco, Franco dalle coordinate di Sorso, e niente, conoscerai anche lui. Se ti va dopo cena di fare le quattro chiacchiere. Avanti di nuovo, Tino. Sì, io scusami, ma non ho memorizzato il nome, Danilo o Daniele? Scusami. Danilo, esatto. Ah, Danilo, bene. No, perché solitamente, sai, quando ci sono quelli nuovi, l'idea era di dare il nominativo proprio per evitare il nome, magari ti passa così, comunque, perché ci sono altri Danilo che conosciamo, e era per non confondere, ma in quanto alla modulazione già riusciamo a capire, ok? Va bene, datti un nominativo, boh, vedi un po' tu se vuoi, oppure noi solitamente entriamo con i nostri nomi di battesimo, però abbiamo già da anni il nostro nominativo, quindi lo teniamo così un po' nascosto, però quando ci presentiamo molte volte lo facciamo diretto, capito? Capito. Ascolta, visto che ci siete, ne approfitto a chiedervi una informazione tecnica. Ma allora, come mai molta gente preferisce modulare in AM se appunto in FM la qualità comunque è migliore? E questo dai una martellata ai maroni a me, però ti rispondo, sempre scherzando, Dani. Allora, nel senso che anche io sono un amante dell'AM, perché sono nato in AM, quindi abbiamo avuto determinate apparecchiature per poter combattere con l'AM in queste frequenze qua, quindi l'amplificazione, la potenza e quant'altro. Ultimamente, parlo da qualche anno, l'AM sta diventando molto sporca per via dell'etere, insomma, chissà cosa di sporcizia c'è in aria, e quindi sta diventando molto confortevole l'FM. E devo spezzare una lancia a favore di Gavino, perché ci sta inducendo a parlare in questa frequenza in FM, essendo più pulita e più naturale, tranquilla, dai. O sbaglio, Gavi? Io l'FM è il discorso che ho fatto poco fa, Franco. Se vogliamo fare un po' di guerra, mettiamo AM, tu hai anche le possibilità di prendere e piegare le antenne, io un po' meno, però andiamo a fare bordello. Se vogliamo invece scambiare un QSO tranquillo, un QSO dove Danilo, io dico sempre che la radio deve essere un comfort, la radio è un comfort, quindi la ricezione deve essere molto dinamica, deve essere una ricezione molto gradevole per scambiare le quattro chiacchiere. Poi se dobbiamo fare chiamata su DX andiamo in AM, quello ci sta, si va in AM o in banda laterale, allora di lì ci divertiamo, perché la prepotenza e la stravaganza domina, prepotenza e stravaganza in AM c'è e ci sta. Altino, anche a me piace a me la AM piace, però non posso stare sempre a tartassare non è io qua in FM sembra che sono seduto a fianco a voi e stiamo bevendo qualcosa, anche se non è vero, anche se non stiamo bevendo, però sembra che sono a fianco a voi e stiamo facendo tutto uno scambiato, le quattro chiacchiere, una molto molto confortevole. Quindi l'FM Danilo, io la preferisco e sto portando sulla brutta strada di frequentare l'FM. Avanti di nuovo per te. Ok, guarda, sei stato molto esaustivo con le spiegazioni, è chiaro, davvero, davvero chiaro. Ascolta, è un'altra curiosità, cioè nasce spontanea, ma a parità di watt si ha più portata in AM o in FM? Presumo in AM, giusto? Allora, l'ampiezza modulata è l'AM, lo dice la parola stessa, ampiezza modulata. Va a non essere più forte della FM, sta solo nel vantaggio che se tu occupi il canale 12 per esempio in AM, rimane su quella, diciamo, rimane sul 12, mentre se tu adesso puoi andare anche nel 13 con grosse potenze, l'FM splattera molto i canali, si chiama frequenza modulata. La frequenza modulata è proprio, lo dice la parola stessa, è proprio chiara, è un'emissione molto limpida, molto reale, mentre la M aspetta, scusate che ho una bassa, Vai, io intanto lo voglio fare una prova in AM, così lo voglio vedere se anch'io lo ascolto. Passi in AM, dai. Certo, guarda, passo subito in AM e facciamo una prova. Vai, dai, così proviamo. Va bene, molto basso, molto basso, però riesco a toglierti fuori, sì, un Santiago 7, Radio 5. Questa è la mia modulazione che non dico la battaglia perché non è più una battaglia, però la lasciamo riposo, domani voglio riaccenderla, anche perché devo accendere troppe cose per poter andare in guerra. va bene, dai, ti ho sentito, va bene anche in AM comunque. Adesso vabbè, lascia perdere la mia che ho attaccato un pochino anche di processore, però diciamo che processore microfonico, diciamo che va bene in AM, in FM lo tolgo perché so sarebbe stato troppo aggressivo, troppo disturbante tra virgolette. Va bene, se vuoi ripassiamo in FM, così era giusto una prova anche per farti sentire la modulazione che come spinge in AM al confronto dell'FM, che la radio magari cambia, però la portata dello Smitter è inferiore. Sì, decisamente. Guarda, ti ricevo sempre bene, è comprensibile tutto, però è vero, la modulazione è molto più scarsa rispetto a prima, cioè prima era perfetta, sembrava proprio che nella stanza insieme a me in FM. No, scarsa, è brutto dire scarsa. Ah, ok, è fatto bene a dirlo, no? Intendevo come qualità inferiore rispetto comunque alle FM. No, magari è troppo amplificata? No, sento un sacco di rumori di fondo, come se ci fosse molto QRM di fondo, mentre invece in FM si è proprio chiarissimo, chiaro. Sì, ma questo quando lo ascolti, quando sto modulando, cioè senti il rumore magari di ventola? Esatto, mentre i moduli sento proprio dei disturbi di fondo, mentre in FM è zero, cioè in FM non sento nessun disturbo, sento solo esclusivamente la voce senza niente, senza nessun disturbo di fondo. Perfetto, ok, vai in FM, vai. Ok, fatto subito. Eccolo qua, aspetta che devo regolarmi un pochino perché togliamo anche il processore microfonico, sennò va a disturbare. Sì, guarda, tutto un'altra cosa, ma davvero, tutto un'altra cosa. E vabbè, dipende anche quello, quello dipende da tanti fattori, nel senso che cioè io ti sto ascoltando con casse differenti adatte a questo tipo di attività qua, non con la classica, come si dice, colonnina piccolina che ha il baracchinetto, ecco. Sì, diciamo non c'è la solita cassa incorporata, ma c'è proprio una cassa esterna dedicata. Esatto. Fate apposta, cioè comprate apposta per questa attività qua, Ho ripreso. Sì, aspetta, ridimmi il termine da lì che mi hai detto, dalla radio. No, no, non ti ho capito, mi sei mancato un secondo, però ho toccato io sicuramente qualche cosa, scusami. No, stavo dicendo, volevo dire a Gavino che mi hai dato un termine in AM che adesso non mi ricordo. Purtroppo ho detto, in confronto a prima è più scarsa, però, cioè vabbè, prendi il termine così come è venuto, nel senso, ingenuamente ho detto è più scarsa, però per paragonarla proprio con la differenza della FM, che proprio è come se fossi seduto a fianco a me con la sedia, senza disturbi e senza niente proprio. Hai capito che è più scarso, e vabbè, ma non sei in 4600? No, non 40, no, ho spento perché ho disturbi qua, ho disturbi, adesso no, sì, ho riacceso, a 100 sono 46 e 100. No, stavo ascoltando, sicuramente Danilo ha confuso un po' i termini, lui parla di... diciamo di una questione di dinamica, lui la M l'ascolta come Danilo, si chiama modulazione militare, è una modulazione militare, mentre l'FM è una modulazione da broadcasting, infatti se tu guardi le emittenti nazionali radio, trasmettono in FM, ma per la qualità, perché in FM è una qualità molto, ha una dinamicità e una qualità molto fedele alla tua modulazione originale, molto veritiera, mentre la M vai ad avere questa modulazione con molto stretta di banda, quell'effetto lo dà l'essere la banda molto stretta, molto, la modulazione molto compressa, rispetto alla M, rispetto all'FM. Tu considera che Tino è uno dei migliori emittenti della M che puoi sentire in circolazione. Ci sono, poi andiamo ad ascoltare anche altri, però lui è uno che sulle radio ci fruga, giusto, per anche molta pazienza nelle regolazioni microfoniche, anche perché ha delle radio di tutto rispetto, quindi non è una modulazione, tu l'hai detto ingenuamente, scarsa, è una modulazione molto diciamo molto meno fedele alla FM, molto meno fedele alla FM. Tu considera che io adesso sto usando un, tu se mi senti bene, io sto utilizzando un sistema microfonico da studio, non sto utilizzando il mic originale del baracchino oppure un microfono da tavolo, io sto usando un sistema di microfonia da studio, da broadcasting, proprio nel vero senso, anzi superiore anche se vogliamo alle broadcasting. Quindi questa è la mia condizione di divertimento, mentre Tino lo stesso sta utilizzando un microfono molto professionale, con un apparato di tutto rispetto. Quindi la spiegazione tra M e FM la riprendiamo magari un altro momento, e va bene così. Signori, io momentaneamente devo chiedere permesso di QRT perché le mie signore sono andate al cinema, a me non mi hanno portato, sono andate a vedere Biancaneve, a me proprio era una cosa che non mi interessava e quindi non sono andato. Però devo preparare la cena perché stanno arrivando, altrimenti potrei morire strangolato. Mi hanno dato questo compito stasera. Quindi io vi saluto, Danilo, mi ha fatto piacere il tuo ingresso in radio, di nuovo qua alla 27.105, dai, ti accoglio a braccia aperte, a quanto ho visto sei una persona molto educata, e quindi se entri, se ti va di scambiare quattro chiacchiere con noi, sei il benvenuto. Tino, caro fratello, io al momento chiudo di nuovo, vi chiedo il permesso di correttiva e Tino riprendi e ci sentiamo dopo cena, sono anche a 446 e 100 e poi giù in fondo ti. A dopo. Bene, riprendo io, gentilissimo come sempre, va bene, no, fai buona carica, mi raccomando, tieniti a secchetto, già lo sai. Vai Dani. Sì ragazzi, è stato davvero un piacere, è stato un piacere sentirvi, farvi una chiacchierata, e in più ho imparato cose nuove, che è il che non è mai male, diciamo, anzi. Mi ha fatto davvero piacere ragazzi, dai, allora visto che so che c'è movimento su questo canale, la sera lascerò appunto l'apparato acceso su questa frequenza in modo da cambiarci due chiacchiere. Sì dai, riprendo io, tanto che Rovino è andato a fare carica, sì, noi spesso e volentieri ci siamo, poi capiterà molte volte che non sentirai nessuno per via del nostro lavoro, che magari voi che rientriamo tardi siamo stanchi e molte volte non accendiamo neanche la radio, però nell'arco della settimana quelle 3-4-5 volte siamo sempre presenti. Può capitare qualche giorno che come tutti non si ha voglia neanche di accendere la radio perché la giornata è stata stressante e quindi andiamo a riposo un pochino prima per affrontare l'indomani che sarà torturosamente nuovamente la solita condizione. Va bene, no, a me lo stesso, mi ha fatto piacere, sono contento che abbiamo trovato un'altra persona, un altro operatore, tra virgolette, CB, educato, non come i soliti che vogliono magari entrare, ma entrano di botto, entrano facendo magari gli stupidi, tra virgolette, stupidi, forse una parola anche molto delicata, e quindi li snobbiamo nel senso che dipende come si presenta una persona, Dani, tu ti sei presentato abbastanza bene, ci hai dato una buona impressione, vuoi fare QSO con noi e ci fa piacere, giustamente se fossi entrato magari strafottente e quant'altro, allora avremmo chiuso i battenti da subito, da te il Mike. Sì, l'educazione guarda, è la base di tutto, a parte oltre alla base di questa passione, è la base anche della vita, quindi uno o si interfaccia con gli altri con l'educazione o può pure evitare. Il problema appunto di queste frequenze libere, che sia CB o PMR, che purtroppo ne trovi di cotte di cruda, purtroppo è vero. Lo so, però poi uno non si deve lamentare, perché io ho sentito anche alcuni pareri di determinate persone, voglio dire, non è che noi siamo sempre seri, cioè no, non ci piace divertirci, scherzare, poi giustamente pian piano ti accorgerai anche tu che prendendo confidenza non è che siamo sempre i professori della frequenza, per carità, però capita che fai un discorso, come dice Gavino, se ti metti a fare un discorso di Gavino è molto bravo, è un tecnico audio, quindi è una persona molto seria su queste cose qua, quando parla sa cosa sta dicendo, è bravo facendo antenne, se ti serve un consiglio, una mano, è sempre pronto, disponibile, quindi non è magari quando affronti un discorso che noi siamo seri e lui e un altro viene a interrompere il QSO magari dicendo stupidaggini, allora dà un pochino di fastidio. Poi giustamente quando ci mettiamo a scazziare anche noi, a ridere e a fare, ci sta, non è che devi stare sempre sull'attenti, attenzione. Questo è un consiglio, una cosa, io perlomeno ci sono da dall'88 in radio, quindi ho conosciuto la severità, ho conosciuto la maniera in cui comportarmi anche in stato radioamatoriale, e quindi mano a mano conosci anche il linguaggio, e ti apre anche un mondo differente da quello che c'è. Oggi, la faccio un po' lunga, giusto per spiegarti un pochino due cose. Oggi, per dire, non troverai ragazzi al tuo stesso livello, nel senso che a te ti piace fare radio, sono contento, però questa passione qua, c'è stato il boom nel 90, 91, 95, tra virgolette, che crescevano antenne da tutte le parti, soprattutto nella zona della Teodolce, Porto Torres, insomma, c'era una battaglia, dopodiché è andata a decadere questa cosa, e chi è rimasto magari un po' affascinato da voi che ti piace la radio, voi che ti piace sentirti con un solito amico, è rimasto, alcuni hanno abbandonato, quindi ecco perché dico, troverai poche persone al tuo livello che si stanno nuovamente affacciando a questo mondo qua. A te il mic. Che poi bisogna capire appunto se tutta questa gente che ha abbandonato è stato un male o un bene, cioè molti ok sono stati un male perché sicuramente ho professionisti e gente in gamba, però magari molti di questi appunto come dici tu erano ragazzi o uomini comunque rispettosi e quant'altro, quindi magari il fatto che abbiano abbandonato non è stato poi un così male, anche perché io penso che comunque usa il CB, è appassionato di radio o quant'altro, penso che comunque sia un ragazzo che lo fa appunto con passione, quindi porta anche rispetto per quello che fa e verso gli altri che lo fanno, penso. Ma guarda Benì, io ho iniziato che nell'88-89 stavo viaggiando Sassari-Palau perché ero militare, no? Allora facevamo il militare, quindi molte volte, credimi, passavamo le serate, cioè io mollavo la mia ragazza a casa sua, non avevo voglia di rientrare a casa, prestarmene un po' in radio. Siccome abitando alla Teodolce dovevo partire alle 5 del mattino per andare a Palau, molte volte mi passava l'ora stando alla radio, ma perché? Perché avevamo una ruota, la ruota è quando tu hai determinati amici che parlano nello stesso canale, penso che già lo conoscerai anche tu, e ci mettevamo così un po' a scherziare, a raccontare barzellette, cosa avevi fatto la sera, cioè ti volava le ore, neanche te ne accorgevi. Io molte volte mi rimanevo voi e tu ragazzi io devo partire, cioè, mi accompagnavano sino a quanto potevano con la radio. Sì, ho capito, diciamo era un modo bello, un passatempo anche quel fatto di fare radio così, diciamo, appunto avevi una compagnia che ti seguiva durante il viaggio. Sì, vabbè, non è che arrivavano molto lontano perché allora c'erano delle stazioni furti, però sai, io facendo quella strada lì e poi entrando anche nella zona un po' montuosa andavi a perdere a Sassari, e quindi non è che però trovavi anche camionisti in giro che ti facevi compagnia l'uno con l'altro, e sembrava che la strada era un po' più breve, dai, diciamo, però è stata una passione che anche a me, devo dire la verità, mi ha mollato un po', perché entravi, accendevi le radio, non c'era nessuno, avevi tante cose da accendere per poi vederle così senza amicizie, tra virgolette, perché avevano mollato tutti, però avendo la possibilità di fare ascolto anche in determinate frequenze, andavi a sentirti quelli di Milano, Torino, insomma, quelle dell'Alta Italia e quant'altro, però ti ripeto, potevi fare un QSO magari in 27 MHz quando c'è la propagazione, però non potevi andare in determinate frequenze a parlare con loro perché lì ci vuole la patente ed è una cosa un po' da prendere con le pinze lì, quindi bisogna stare un pochino attenti anche se si va e come si va, e niente, quindi un po' mi stava mancando anche un po' a me questa passione qua, quindi ho fatto per un determinato periodo, le ho spente le radio, proprio le ho spente, le accendevo solo per fare come si dice, caricare un po' i condensatori e basta, ma senza modulare. fare, sia che poi ci siamo sentiti con alcuni amici e detto, ma rimettiamo in moto la 27 così ci facciamo una chiacchierata e quant'altro, e pian piano dai stiamo riuscendo a, insomma, a divertirci ogni sera a fare il nostro QSO. Poi giustamente io sono quello che forse tra gli altri sono quello che mangia più in ritardo, no? Quindi e quando loro rientrano che hanno finito di mangiare io devo andare, però insomma tempo di caricare e poi già riprendiamo. Vai Dani, a te. No, allora invece da me tutto è iniziato praticamente che ho sempre avuto la passione per i PMR, sai, quant'altro, anche perché molte volte li usavamo per lavoro, e è capitato che, sai, frugando un po' su internet ho visto un gruppo su Telegram che era Progetto PMR sul canale 3, e oltretutto di lì comunque ci sono anche radioamatori e quant'altro e altra gente che usa il CB, quindi sai, parlando ti nasce la curiosità comunque anche di vedere altri apparati e altre cose, e quindi nulla, ho iniziato con appunto un PMI Escort di 6005 con una penna Sirium, una ML145, e niente, però vedevo che era deserto tra virgolette la cosa, poi sai, ovvio, è l'antenna che comunque non è che sia fantastica, e quindi comunque se eri in altura magari qualcosa in più riusciva a sentire, e poi appunto ho deciso di mettere un'antenna sul tetto, e niente, comunque ho visto anche che appunto sul canale 10 era frequentato, di lì sempre della zona tua c'è, ho conosciuto Gia Maria, non so se lo conosci, e comunque ho iniziato a farmi qualche chiacchierata anche con loro, e la cosa mi ha preso, diciamo. Sì, Gia Maria, noi ci conosciamo, ti ripeto, io sono un vecchio veterano, quindi, ma poi Gia Maria Figaro è un carissimo amico di mio padre da giovane, poi ha saputo che era mio padre addirittura, ancora meglio, io ci conosciamo tantissimi anni, vabbè c'è Gia Maria, allora lì sul 10 c'è Gianni, doppio whisky, chi c'è Marcolino, Condor, insomma un po' di gente già ci bazzica, diciamo, dai. Sì, guarda, io ho avuto il piacere di sentire a Gia Maria, a Luca, a Marino, a Gianni e forse qualche di un altro che ora non mi ricordo, però sì, no, tutta gente in gamba, lo stesso, infatti anche con loro ogni tanto la sera ci si sente sempre sul 10, e devo dire che è bello, cioè è una bella passione, perché poi appunto vedi, puoi parlare di argomentazioni tecniche, di vita quotidiana di tutti i giorni, comunque ti passi con la mezz'oretta, ti passi con la una oretta, comunque diversa dal solito, dove ti fai una gradevole chiacchierata. Cappa, positivo, sì, va bene, no vabbè, io bazzico un po' tutti i canali, non è che dove sento gente entro, saluto, perché ti ripeto, essendo da tanto in frequenza li conosco quasi tutti, è raro che non li conosca, comunque. Va bene, dai, io adesso mi devo allontanare perché anch'io devo preparare un pochino, devo dare una mano alla signora a preparare un po' da mangiare, che siamo rientrati poc'anzi da Trinità d'Agulto per via di un lavoretto che dovevamo fare, quindi siamo un po' stanchi, però dai, ci mangiamo una cosina, poi se coincide mi fa piacere, se vuoi rientrare, tanto ci sarà anche Gavino e Franco, ci facciamo una chiacchierata, a più tardi, dai, ti saluto, un abbraccio, grazie, ciao. Perfetto, è stato un piacere, è stato davvero un piacere. Dai, allora, nel caso ci si sente dopo cena, così si prosegue la chiacchierata. Va bene, ciao. Grazie, alla prossima, buona serata e buona cena. Figurati, un piacere. disappears. Men might live just like the animals. Then something happened which unleashed the power of our imagination. We were the talk. Bene, io sono operativo, quando volete, siamo qua. E allora, c'è nessuno? Non so, sei. E allora? Sì, siamo qua, va bene, finito? Sto per chiamare all'altra frequenza, sì, finito adesso. Oh, sono distrutto, non a dir poco distrutto, mi pare mai... Le giunture delle ginocchia. Meno male che mi hanno dato una mano. Ho dovuto chiamare un signore, praticamente uno che gli fa un po' di manutenzione lì in quell'appartamento, per un divano, perché era troppo pesante. Però è un bel divano a tre posti, quello che ti alza le gambe praticamente un po' a una certa altezza, quindi la struttura è pesante. Sì. E quelli sono, sì, sono pesanti, però è roba buona. Io stamattina ero ad Alghero col padre di Vittore a prendere una camera da letto. Infatti ero alle 8 da Porto Torres, l'ho preso e siamo saliti ad Alghero, caricata, scusa, e siamo scesi di nuovo a Porto Torres la montata a casa di un loro amico. E niente, ho finito 11 e mezzo, anche perché dovevo andare poi da mio suocero a che sta facendo un lavoro a prendere di nuovo il punteggio per portarlo in cantiere da loro, ma non ha finito, quindi si, dai, credo che questa cosa si è spostata a metà settimana se ho tempo, o altrimenti sabato pomeriggio, sabato prossimo di pomeriggio vado e glielo, me lo carico, vado e me lo carico di lì vicino a Marrizio. E niente. L'hai fatto tu e tua moglie e basta. Sì, allora. E che torre? Torre lo conosco io. Scusa un attimo. Lo puoi abbassare? Sì, il dai, quello che conosci tu. Bene. Allora, sì, sono andato, avevo un furgone a tre posti, un bello a tre posti. E quindi sono sceso io, mia moglie e Nicolas. Poi vabbè, c'è mia cognata. Insomma, non ho potuto fare sforzi. Quindi ha dovuto chiamare uno che per darmi la mano, perché ha detto, guarda, uno ci aveva sceso io Marisa, e va bene. Era di quel tipo leggero, un divanoletto cassonato sotto, dai. Però era leggero, l'altro era un po' più pesante, tu e la sabbia. Ma il problema, sai cos'è? Il problema era l'acqua, che stava piovendo, cioè piovigginando, stavamo temendo quello, poi camera da letto, materasso, nuovo, e l'ho dovuto tutto quanto, come si dice, proteggere con quel nastro. C'è presente quello che usano per i pacchi, quello adesivo, quel rullo, dai, che si usa per impacchettare i pallet. Sì, il velo, quel velo trasparente. E quello già agisce, altrimenti di quei teli 4x4 li avresti coperto con quello nel trasporto. Però qui si entra appena d'aria, si unfieggia, mi va di vera, ed è un casino, è come che non ce l'hai, e anche ad Alghero stava piovendo, e poi c'era vento, ho già fatto veramente una giornata brutta, vento Eva a marzo, cosa v'entra? Marzo pazzarello. C'è il sole e prende l'ombrello. Sì, no, infatti ho provato anche a fare con quello velino, mamma mia, il nervoso elettronico come stava venendo, con schizzi di no, lascia perdere. Alla fine ho optato di fare un paio di giri di quella roba lì, ma il bello è che essendo al primo piano, il bello è che avevo la possibilità di mettere il furgone sotto, quindi la maggior parte l'ho scesa dal terrazzo, perché loro me la passavano, io da sopra il furgone caricavo. Il problema erano sempre queste tre rampe di